Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca della giornata economico-finanziaria, come sempre, per quello che è uscito. E oggi torneremo a parlare di borsa, più con un approfondimento anche più articolato del solito. Perché? Perché la borsa sta andando maluccio, soprattutto Milano, nel senso che Milano perde l'1,60, è arrivata a perdere il 2, Francoforte invece perde solo lo 0,4, Parigi perde l'1%, Londra perde l'1,32% e l'America perde lo 0,2%. In realtà poi a pesare sull'andamento di Milano sono soprattutto tre titoli. ST Microelectronics, che ha oggi presentato i dati a Parigi, abbiamo un'intervista con il numero 1 realizzata dal nostro inviato lì, perde il 4,26%. Fiat perde il 4% ed è praticamente quasi sotto i 9 euro per azione. Banco Popolare perde il 3,80% ed è sotto i 5 euro per azione. Poi anche Mondadori perde il 3,3%, Exor il 3,1% come conseguenza su Fiat, Impregilo meno 2,80% come Buzzi Unicem e Intesa San Paolo Mediaset meno 2,6% come Unicredito. Italcementi perde il 2 come Mediobanca e le generali l'1,7, Unipol meno un punto e mezzo come Eni e Mediolanum. Chi guadagna invece è Ansaldo STS, anche questa è una società che deve uscire con i conti, un bel balzo, più 4,5%. Ansaldo viene da una serie consecutiva di rialzi, 14,5 euro e poi A2A più staccata, più 1,3%, Fondiaria più 1%, Parmalat più 0,80% come Prysmian e Finmeccanica, che Ansaldo STS controlla. Quindi i conti influiscono molto oggi sulla borsa, i conti e le prospettive, questo vale soprattutto per Fiat. Avremo un approfondimento appunto su Fiat a cavallo tra sindacale e conti della Fiat, perché c'è anche la cassa integrazione per 2 settimane che ieri vi abbiamo raccontato, e ci sono anche le dichiarazioni del ministro Scajola molto perplesso per questa scelta. Parleremo di fisco perché si sta concludendo la giornata che il Sole 24 Ore dedica al fisco e quindi telefisco. Questa mattina intervento anche del ministro Monti, del direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Befera, ne parleremo nella seconda ora del programma, dove commenteremo anche i dati di oggi sull'export. Il bilancio 2009 è pesante, meno 18,3% il nostro export, mai così male dal 1993, ossia da quando esiste la serie statistica, per cui non sappiamo prima, ma insomma è il peggior export da quando esiste la serie, alla faccia di chi diceva che la crisi non c'era. Ultimo tema che affronteremo, oltre a Fiat, Export, aiuti all'export attraverso la Siemens e conti di ST Microelectronics, parleremo di criminalità, ossia di come qual è il bilancio economico della mafia SPA. Ogni anno tocchiamo il tema, ci interessa mantenere alta l'attenzione, ma anche parleremo in chiave positiva di un maxi sequestro da 500 milioni di euro. Lo faremo subito in apertura dopo le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri SMS. Allora, continuiamo sui mercati. Volete sapere dell'euro? L'euro a quota 1,40 e 41. Ancora per quello che riguarda le notizie di oggi, sempre partendo dal fronte internazionale, citiamo il petrolio, lieve calo ma sempre fermo a $74 al barile. In Cina, dopo la stretta del credito attraverso l'aumento delle riserve bancarie, la Cina dà nuovi segnali di voler restringere il credito, perché la Cina ha un problema contrario al nostro, cresce troppo, teme una bolla, diciamo, creditizia, una bolla di un eccesso di prestiti, di crediti quindi alle imprese, una bolla creditizia è il rischio. Allora la Commissione cinese di controllo sulle banche ha intimato alle banche commerciali di attenersi strettamente alle direttive sul credito immobiliare, aumentando la vigilanza sui mutui. Calano le vendite di nuove case in America, e questo è il dato che arriva dopo il calo molto brusco della vendita di case già esistenti. Anche le nuove case sono calate parecchio, meno 7,6%, e siamo tornati ai minimi degli ultimi 9 mesi. È un segnale non bello quello che arriva dall'America sull'andamento del mercato immobiliare. A questo punto si fa anche il consuntivo del 2009 e la vendita di nuove abitazioni negli Stati Uniti nel 2009 ha fatto un meno 23%, non accadeva dal 1963. Sapete che è la nostra fissazione, ma per capire la portata di questa crisi a noi interessa o piace molto ricordare il riferimento come anno storico, per capire da quanto è che non si vedevano numeri del genere. Ancora dice Timothy Geithner, il segretario del tesoro americano, la crisi economica non è finita, ma sono migliorate le condizioni del credito. Non vediamo nulla di nuovo in questo commento, e però aggiunto, abbiamo dovuto salvare AIG perché il colosso dei mutui americani, perché le conseguenze del suo fallimento sarebbero state catastrofiche. Questa notte alle 3 ore italiane vi sarà l'atteso discorso sullo Stato dell'Unione da parte del presidente americano Barack Obama. Domani ne parleranno i nostri GR Mario Platero e anche Focus Economia per quello che riguarda la parte economica. E allora, mentre come avete letto oggi su molti giornali, un emendamento alla legge comunitaria che verrà discussa in aula al Senato prevede che vengano resi pubblici i compensi corrisposti dalle società quotate in borsa ai propri manager, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, quindi anche i bonus, tutti i compensi, si è aperto oggi il forum di Davos. Allora, domani dedicheremo anche un po' di graffi a Davos, perché insomma sapete come la pensiamo, si sono riuniti per anni in questa bellissima località piena di neve in Svizzera, ma fino al 2008 non si era prevista nessuna crisi, quindi ci si chiede, a parte diciamo l'ottima qualità della ristorazione, che cosa serve andare a Davos. Comunque quest'anno sono arrivati 2500 ospiti, 90 paesi, 30 capi di Stato di governo, 1400 numeri uno delle principali società. Per l'Italia arriveranno il Ministero dell'Economia Giulio Tremonti e il Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, e domani avremo altri spunti, oggi pomeriggio parlerà il Presidente francese Sarkozy. Comunque vedremo quale indicazione uscirà da Davos, fermo restando che i grandi guru dell'economia, mi riferisco soprattutto ai grandi gestori e maghi della finanza, non è che l'avessero vista tanto la crisi arrivare, ma probabilmente erano troppo in alto. Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia a Telefisco, iniziativa del Sole 24 Ore, ha parlato, ne parleremo anche nella seconda del programma, di fiscalità, e ha detto attenzione, per quello che riguarda la riforma delle tasse, del fisco, non è il momento per fare una riforma fatta di piccoli rattoppi, occorre una riforma fiscale che ci allinei al nuovo secolo. Io credo che il sistema fiscale così com'è non può essere modificato dall'interno, il nodo di Gordio non si scioglie, si taglia. Io credo che è arrivato il momento in Europa e in Italia per cominciare a ragionare su una riforma fiscale che ci allinei al nuovo secolo. Non possiamo entrare nel nuovo secolo, il mondo è totalmente cambiato, con il fisco dell'altro secolo. E non credo, fatta questa scelta, che la via giusta sia quella dei piccoli rattoppi interni. Con prudenza, con saggezza, prevedendo tempi e metodi di passaggio da un sistema all'altro, ma è inutile stare a fare, a rimettere a posto, a fare il bodybuilding a una specie di ectoplasma che ormai nessuno sa più dov'è e com'è e che cumula elementi di ingiustizia con elementi di inefficienza. Il sistema fiscale può essere giusto, può essere efficace, il nostro non è né giusto né efficace. E ripeto, ne parleremo nella seconda ora del programma. Altre dichiarazioni del ministro Monti, che ha detto attenzione, toccare l'IRAP, eliminare l'IRAP significherebbe togliere la sanità, è un'imposta molto difficile da eliminare, anche se andrebbe eliminata. E poi ha parlato anche di tasse sulle rendite e altre cose. Comunque per quello che riguarda le ultime due notizie che vi leggo, una è Fiat, ma anche qui avremo un approfondimento. Il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola ha detto non la scelta della cassa integrazione in Fiat di tutti gli stabilimenti, ricordo, no? 30.000 lavoratori coinvolti, Mirafiori, Melfi, Termini Imerese, La Sevel, Cassino e Pomigliano, ultima settimana di febbraio e la prima di marzo. Beh, Scajola ha definito la scelta della Fiat non opportuna, rende tutto difficile, lavoreremo per riannodare il filo del dialogo. E invece il vicepresidente di Confindustria con delega alle relazioni industriali, Alberto Bombassei, ha detto: beh, non mi stupisce, se non si vendono macchine la cassa integrazione è fisiologica, è normale. Parleremo anche qui nella seconda ora del programma del dato di oggi sull'export, che vi ricordavo, volete le conferme al 349-238-6666, meno 18%, peggior dato dal 1993. Volete sapere di ST Microelectronics? Anche qui ne parleremo nei mercati. Comunque, le perdite sono salite a 1 miliardo e 100 milioni, i ricavi sono calati a 8 miliardi e mezzo, e quindi insomma si è chiuso male l'esercizio nel 2009. Nel quarto trimestre però i ricavi sono stati in aumento del 13% sopra le attese. Quindi soffre ST Microelectronics, soffre la Fiat e i lavoratori della Fiat soprattutto. C'è invece una società non quotata, forse almeno per ora non quotata, che non soffre proprio, anzi nel 2009 ha visto crescere i suoi fatturati, il volume d'affari, il suo intervento. Voi direte: qual è il segreto? Beh, basta chiamarsi Mafia S.P.A. Eh sì, il rapporto SOS Impresa, che viene presentato questa mattina come ogni anno dalla Confesercenti, parla molto molto chiaro. La mafia vuol dire un business da 135 miliardi di euro, è la prima SPA, la prima società, non per azioni, o meno diciamo i possessori delle quote di maggioranza sono anche ricercati dallo Stato, ma è la prima società in Italia. Anche perché, visto diciamo, i pochi vincoli, chiamiamoli così, di bilancio su cui si muove la mafia, intesa come mafia, intesa come tutta la criminalità organizzata, porta ad avere utili che sono pari alla metà del fatturato, cioè 135 miliardi di fatturato, 70 miliardi di utili. Diciamo che gli accantonamenti sono bassi, anche i costi sono variabili, flessibili, insomma dipende chi è il fornitore. Ma la cifra contenuta nel rapporto a Confesercenti, appunto, fa anche notare come proprio nel 2009, in un anno di difficilissima crisi economica, sia aumentato il volume d'affari della mafia. E indovinate un po' perché? Per le difficoltà di accesso al credito delle imprese, dei piccoli artigiani, dei commercianti, che hanno spinto, lo dico senza nessuna polemica, lo dice la Confesercenti, molti piccoli imprenditori, artigiani, esercenti nelle mani dell'usura e quindi della mafia. Allora, è un boom quello dell'usura nel 2009, 200.000 commercianti colpiti, ma le posizioni debitorie sono circa 600.000, quindi vuol dire che molti di questi hanno più di uno strozzino, almeno 3 in media, e un giro d'affari di 20 miliardi di euro, ed esplode l'usura di giornata, cioè addirittura si è arrivati a dare dei soldi in prestito per il giorno con tassi di interesse del 10%, dalla mattina alla sera. E quindi voglio dire, tutti i segnali che arrivano, come adesso vi racconta questa scheda, sono tutti segnali che parlano di un aumento delle attività della mafia, oltre a quelle tradizionali, prostituzione, droga, stupefacenti, appalti, proprio nel prestiti, nei microprestiti, o neanche tanto micro, a imprese, artigiani e normali cittadini. Se ci si fermasse alle cifre, sembrerebbe un bilancio da lustrarsi gli occhi. Giro d'affari in crescita, utili miliardari, investimenti, accantonamenti, risorse per i dipendenti, anche, per così dire, quelli meno fortunati. Insomma, nessuna crisi per quella che purtroppo è e rimane la prima azienda del paese, vale a dire la Mafia S.P.A., capace di chiudere il 2009 con incassi per 135 miliardi di euro e 70 miliardi di utile. A fare la parte del leone è il traffico di droga, che genera entrate per 60 miliardi all'anno. La seconda attività più redditizia sono usura e racket, che fruttano 25 miliardi all'anno, seguiti dai reati ambientali. Discariche abusive, smaltimenti illegali e quant'altro portano infatti nelle tasche della criminalità organizzata ben 16 miliardi l'anno. Importanti anche gli incassi della contraffazione e della gestione di appalti e forniture, entrambi con incassi per 6 miliardi e mezzo l'anno. Tra i 2 miliardi e i 500 milioni di euro, infine, i proventi di furti, rapine e truffe, della prostituzione e di giochi e scommesse. Così, alla fine, i 1.300 reati al giorno di varia natura commessi dalla criminalità fruttano 135 miliardi all'anno. Ma come viene spesa questa montagna di soldi? La cifra più grossa, 26 miliardi, è destinata agli investimenti. Altri 20 miliardi servono invece per gestire il riciclaggio del denaro sporco, mentre 6 miliardi sono destinati agli accantonamenti. Non manca la voce costo del personale, a cui ogni anno sono destinati 1 miliardo e 200 milioni di euro. I capi intascano 600 milioni, gli affiliati 450, i detenuti 9 milioni, i latitanti 30 milioni. Poi ci sono i fiancheggiatori, che nel complesso guadagnano 1 miliardo e 700 milioni, i corrotti 95 milioni e infine consulenti e specialisti con 5 milioni. La cifra destinata alla logistica, ossia covi, reti ed armi, è relativamente modesta, 45 milioni di euro all'anno. Da ultimo non potevano ovviamente mancare le spese legali, che incidono però davvero poco, appena 80 milioni l'anno. Impressionanti queste cifre, e soprattutto temo che siano cifre anche viste nella parte bassa, diciamo così, della forchetta, perché è chiaro che stimare il valore effettivo della criminalità organizzata è altissimo, insomma fa spavento. 135 miliardi, prima azienda del paese, la mafia S.p.A. E il rischio, appunto, di questo bollettino da guerra, rischio sopra per quello che riguarda il mondo delle imprese, le piccole imprese, i commercianti, chi ha anche meno possibilità di difendersi, di avere appalti grossi, strutture grosse. E il presidente di Confesercenti, Marco Venturi, ha parlato appunto di un bollettino da guerra contro la criminalità. Sentiamolo al microfono la nostra Chiara Grandis. Il racket è diffuso ormai nelle zone e nelle regioni a rischio. Non dico che pagano tutti, ma insomma una buona parte degli imprenditori pagano il pizzo. Per quello che riguarda l'usura, è chiaro che si collega con la crisi dell'economia e quindi ci si rivolge di più agli usurai quando non si ha accesso al credito, quindi al finanziamento attraverso il sistema bancario. E noi riteniamo che la risposta vera debba essere data dal sistema bancario, deve essere dato anche attraverso le controgaranzie dei nostri consorzi fidi che mettiamo in campo, e quindi evitare di consegnare i piccoli imprenditori nelle mani della criminalità. Per fortuna vorremmo chiudere questo primo approfondimento, un tema serissimo. Vedo molti messaggi al 349-238-6666. Anche qui, attenzione, nessuno può immaginare di eliminare la criminalità organizzata, soprattutto visto che noi siamo dei grandi produttori, ma ridurla, quello sì. Quello si può fare anche colpendo la mafia, le mafie, nella cosa che più gli sta a cuore, i soldi. Eh sì, e da lì poi la polemica sui i beni confiscati, i beni sequestrati. Volevo chiudere però con una notizia positiva questa prima parte, perché la Direzione Investigativa Antimafia e il GICO della Guardia di Finanza di Palermo hanno sequestrato oggi il patrimonio aziendale, societario e personale di un imprenditore di Agrigento condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa. Sapete quanto aveva questa persona? 550 milioni di euro. Non ha avuto, penso, nessun bisogno di fare lo scudo fiscale lui, comunque non lo sappiamo, e sarebbe interessante vedere la dichiarazione dei redditi, visto che poi parleremo anche di Telefisco. Un lavoro molto prolungato comunque quello fatto e svolto anche dalla DIA, la definizione del generale dei carabinieri Antonio Girone, che ha consentito di portare un colpo diretto e forte al capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Nino Amadore, collega del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao. Autore del l'autore del libro La Zona Grigia, professionista a servizio della mafia, e con la collega Serena Uccello anche L'Isola Civile, le aziende siciliane contro la mafia, edito da Einaudi. Allora Nino, tu hai seguito anche la conferenza stampa. Il generale dei carabinieri ha parlato di colpo, di un colpo grosso inferto a Matteo Messina Denaro, perché? Ma perché questo imprenditore, questo Rosario Cascio, era sostanzialmente l'interfaccia economico di Matteo Messina Denaro in quell'area. Non esattamente un suo prestanome, ecco, però un portatore degli interessi di quello che oggi può essere ritenuto sicuramente un capo di Cosa Nostra, se non il capo, ma un capo di Cosa Nostra. Latitante da anni, è un uomo di spessore, che controlla, come ha anche ricordato Scarpinato, il procuratore aggiunto di Palermo, Roberto Scarpinato, che coordina il Dipartimento di Mafia e Economia, è un latitante, un capo mafia che utilizza, si serve e collabora con i colletti bianchi. Cascio era uno di questi, e Cascio è un pezzo importante, un imprenditore mafioso di quelli di livello, diciamo. Quando dici di livello, cosa vuoi dire? Che non si limitava a gestire, ma investiva anche? Perché non si limitava, no, non gestiva sicuramente, investiva, cresceva e pensava a come perpetuare il sistema mafioso. Lui era stato protagonista con Angelo Sino, il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, certo, che oggi è pentito, del famoso tavolino mafioso a cui partecipavano politici, altri imprenditori, insomma, a cui partecipava l'intera regione per dividersi gli appalti, e recentemente aveva provato a mettere in piedi una sorta di nuovo tavolino mafioso in cui diciamo, si decideva il prezzo delle forniture, si decideva anche il prezzo della tangente che tutti gli imprenditori dovevano pagare, questo famoso 3%. Esatto. Dopo, fra poco, vorrei anche chiarire, perché ci scrivono gli ascoltatori, la differenza tra sequestri e confische, questa è una differenza non da poco, al 349-238-6666. Però vorrei far ascoltare cosa ti ha dichiarato proprio il generale dei carabinieri Antonio Girone in merito, perché noi purtroppo dobbiamo ragionare di mafia in un programma come questo come se fosse una società non per azioni, a responsabilità limitata, molto limitata, società anonima, per azione anonima sicuramente, però ragioniamo in termini economici. E il generale Girone ha chiarito qual è il core business, l'attività principale della mafia. Abbiamo potuto configurare come il core business dell'attività della mafia sia innanzitutto il settore del calcestruzzo, degli inerti e delle costruzioni in generale, che creano naturalmente capitale. Poi ovviamente si opera su altri settori, per esempio la distribuzione. Rammento che dal 2000, fine 2008 ad oggi, la DIA ha sequestrato, a seguito di proposte del direttore della DIA, un importo pari a 1,4 miliardi di beni mobili e immobili, 700 milioni agricoli, che operava soprattutto nel settore della distribuzione. Vediamo Pecora 200 milioni e Cascio in questi 550, che operano e che spaziano soprattutto sul sistema, diciamo, delle costruzioni e della imposizione dei materiali inerti e calcestruzzo. Ecco, la cosa che a me ha sorpreso, Nino Amadore, lo dico con la massima ignoranza, è che io pensavo che il core business della mafia fossero gli stupefacenti o certi appalti, invece è ancora il classico vecchio calcestruzzo. Ma sì, perché diciamo, l'interesse è maggiore, sembra quasi una banalità, però è così, l'interesse maggiore delle famiglie mafiose è nel settore delle opere pubbliche in particolare, perché lì si fanno i margini maggiori. Per esempio, in questa operazione che hanno fatto, questo imprenditore si lamentava perché le altre imprese di calcestruzzo applicavano un prezzo regolare, mi pare che era 78 euro a metro cubo. Lui dice: ma come? Avevamo deciso di venderlo di meno, ma perché lo vendevano di meno? Perché c'era, diciamo, la famosa questione del cemento non esattamente forte. E no, no, un cemento taroccato che poi genera le tragedie che abbiamo visto anche in questi giorni. Prego, vai avanti. Esattamente. E poi ci sono tutti, cioè, con il movimento terra, con la fornitura, con gli inerti, è facile realizzare margini sui bilanci, perché poi i bilanci sono taroccati e insomma è difficile sovrafratturazione e quant'altro. No, lo dico perché è importante ricordare come, per carità, i colletti bianchi, uno pensa che la mafia investa sempre solo in ristoranti al nord, in imprese, in finanza. In realtà il core business, perlomeno in Sicilia, è ancora sul vecchio caro calcestruzzo, le macchine in movimento terra. Questo lo dico perché sarà poi importantissimo, quando il ponte sullo stretto dovesse partire, avere il massimo controllo non solo sulla società che fa l'appalto, ma su tutti i subfornitori, anche quelli più piccoli. Nino Amadore, l'ultima battuta su sequestri e confische. Il problema è molto semplice: i sequestri vanno bene, però sono temporanei. Il colpo finale glielo dai quando il bene viene confiscato. E poi vorrei sapere quanto prende piede questa cosa che è scoperta per esempio in Calabria, cioè che molte volte quando vengono messi all'asta i beni dei mafiosi, camorristi, 'ndrangheta e mafia, poco cambia, si presenta in fase di asta un personaggio, un prestanome che alza e ricompra il bene anche a un prezzo più basso. Prego, Nino. Ma guarda, allora ti rispondo in due modi. Il sequestro e confische, insomma, il sequestro è la misura, diciamo, di primo grado, possiamo chiamarla così, cioè intanto la misura che agisce subito, immediatamente. La confisca è la misura definitiva, quando il bene viene definitivamente tolto al mafioso. Oggi Scarpinato ribadiva un concetto molto importante, che i provvedimenti di sequestro devono essere fatti bene, perché poi devono reggere fino alla confisca, e non sempre i beni sequestrati arrivano fino alla confisca, quindi bisogna specializzare le forze dell'ordine in tutte le regioni italiane, perché ormai le mafie hanno beni, proprietà, azioni e società in tutte le regioni italiane, nessuno si senta escluso da questa, purtroppo si è diffuso il fenomeno. Questa è la questione. L'altra questione è un po' più delicata, però racconto, vorrei farla capire con un aneddoto. Mi è capitato, insomma, di ascoltare dei racconti di persone che hanno partecipato a delle aste. In queste aste si è presentato il proprietario, e quando si è presentato il proprietario nessuno ha avuto il coraggio di fare un'offerta. Quando succedono queste cose, e potrebbero succedere spesso, il bene sequestrato o confiscato torna, o potrebbe tornare, o c'è il pericolo che torni nelle mani di chi lo ha avuto tolto, non perché ne abbia bisogno, ma perché deve dimostrare che il potere è ancora nelle sue mani. Ecco, per esempio da lì si potrebbero trovare dei soldi, per esempio, così uniamo anche l'intervista con Brunetta di ieri, per i giovani fuori casa, non lo so, magari potrebbe essere un'idea. Grazie a Nino Amadore in collegamento con noi da Palermo, grazie, e buon lavoro, in bocca al lupo, Nino. Buon lavoro. Dunque, scrive un ascoltatore: non crede che parlare di mafia come azienda sia fuori luogo e sia un insulto sentire usare il termine fatturato associato a dei delinquenti. Pompare le cifre può essere letto come ammirazione, non abbiamo bisogno di questi esempi e di paragonare i mafiosi a degli imprenditori. No, la penso in maniera esattamente contraria. Penso che parlare della vera attività mafiosa, del vero pericolo, che non è appunto la mafia con la coppa e la lupara, ma sono i 135 miliardi di giro d'affari, i 70 miliardi di utile, il core business sulla sul calcestruzzo, sul movimento terra, le aste che vanno disertate perché si ha paura di ritorsioni, i beni che vengono solo sequestrati e non confiscati, sia fare il danno e colpire la mafia laddove è più sensibile. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa parte di Focus Economia in cui parleremo di borsa e di Fiat. Allora, perché di borsa e di Fiat? Le due cose si tengono. Chiaramente oggi Fiat è il peggior titolo in borsa e si è fermato proprio per un pelo a 9 euro per azione, meno 4,8%, segue il Banco Popolare meno 4,6% e Steam Electronics, anche qui intervista con la D sui conti, brutto 2009, meno 4,2%, Mondadori meno 4%, Exor meno 3,78% e qui segue Fiat, chiaramente Buzzi Unice meno 3,2%, Impregilo meno 3,2%. E Intesa meno 2,90, Unicredito meno 2,90, Mediaset meno 2,6, Italcementi meno 2,4, Mediobanca meno 2,2, Generali meno 2, come Mediolanum e Unipol Eni meno 1,8%. Avete già capito che la giornata non è stata di quelle belle, meno 1,8 complessivamente la borsa, la peggiore in Europa, infatti Parigi perde l'1,2, Francoforte lo 0,4, Londra l'1,1, l'America sta perdendo un modesto 0,2. Bene, Ansaldo, anche qui i conti, adesso ve li daremo perché devono essere già in rete, più 3,7%, A2A più 1,3%, Parmalat più 0,9%. Parliamo prima di tutto quindi di Fiat perché, come già ieri mettevamo in evidenza, è la prima volta, una delle prime volte che io ricordi, in cui un gruppo annuncia di distribuire dividendi ordinari, risparmio, privilegio e dal giorno dopo viene bastonato in borsa. Allora, il tema c'è tutto, nel senso che di solito quando un gruppo conferma la politica dei dividendi e conferma che distribuirà parte dell'utile, è chiaro che su questo la borsa va ad acquistare. Che cosa è successo? Andrea Malan, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. È chiaro che ieri è arrivata la notizia dei 30.000 cassaintegrati per due settimane, fine febbraio, inizio marzo, ma non è forse questo, la borsa è molto più cinica di questo, su cosa si muove? Diciamo che il discorso della cassa integrazione intanto è indubbiamente rilevante, nel senso che dà un'idea di quale possa essere la prospettiva del 2010, è altrettanto vero però, come ricordano alcuni, che nel 2009 molti stabilimenti della Fiat hanno girato tra virgolette con una settimana di cassa integrazione al mese, quindi non è una novità, un cambiamento di scenario straordinario rispetto a quello che è successo l'anno scorso. Probabilmente il mercato nel suo teme comunque il peggioramento del clima sindacale, il mercato probabilmente sperava che la decisione della Fiat di chiudere lo stabilimento di Termini Imerese nel 2011 fosse tra virgolette accettata o in qualche modo negoziata in maniera più tranquilla, di fronte invece alle reazioni molto dure e comunque a una politica che in qualche modo sostiene come si dice, le richieste sindacali e cerca di ottenere qualcosa dall'azienda impugnando, ricordiamo, l'arma degli incentivi alla rottamazione. Di fronte a uno scenario di questo tipo, il mercato teme una situazione nei prossimi mesi più difficile. Se si unisce appunto un quadro dipinto da Marchionne non eccessivamente ottimista sulle vendite di auto nel 2010, ecco che comunque nel dubbio, come al solito, gli operatori di borsa hanno preferito vendere. Allora, tu hai già chiarito che qui è in atto anche uno scontro diciamo di politica economica, possiamo chiamarlo così, cioè il governo ha fatto capire che sulla politica, diciamo, degli esuberi, da Fiat si gioca gli incentivi, mettiamola così. Il sindacato da parte sua dice: attenzione a questa decisione della Fiat, l'ha detto oggi il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni, potrebbe sembrare a qualcuno un ricatto, come dire, attenzione che se non riusciamo, poi non ci fate lavorare, Termini non viene chiusa, non riparte politica di incentivi, questo è quello che succede a tutti gli stabilimenti Fiat. E stranamente oggi si registra così una perplessità, per essere buoni, analoga tra quella che ha il sindacato CGL, CISL così, e quella che ha il ministro Scajola. Allora, dicevamo delle dichiarazioni del ministro Scajola sulla vicenda Fiat e anche del sindacato, le ascolteremo assieme perché, ripeto, sono perplessità molto molto simili quelle del governo, e quelle del sindacato. Scajola e poi Susanna Camusso, al microfono il nostro Paolo Piacenza, segretario confederale della CGL. evidente che essendoci state molte vendite, soprattutto nel mese di ottobre, novembre, dicembre, a gennaio la domanda si fermi. Proprio in questi giorni che stiamo affrontando la delicata vicenda di Termini Imerese e quindi il piano complessivo della Fiat in Italia, ecco, questa rapidità di decisione della Fiat di annunciare già da oggi e di avviare a fine mese la cassa integrazione per tutti gli stabilimenti Fiat, ecco, mi pare una decisione non opportuna. Lo strumento della cassa integrazione è uno strumento che giocano le aziende, perché è uno strumento previsto per adeguare la produzione alle vendite. E con la Fiat i nostri contatti sono continui, non sapevamo che avesse deciso, pur avendo contatti continui, l'annuncio di ieri. Mi auguro che si possa riannodare il filo, ma sicuramente questa decisione non opportuna in questo momento rende più difficile la vertenza. Ma la prima valutazione, che credo che sia assolutamente inevitabile, è la modalità con cui la Fiat annuncia questa fermata alla vigilia di un incontro che tutti sappiamo essere molto delicato, che riguarda lo stabilimento di Termini Imerese, ma più in generale il piano industriale della Fiat. Non si capisce, per esempio, perché di fronte a una valutazione di questo tipo la Fiat non abbia scelto di utilizzare quell'occasione per fare una discussione serena su un tema che indubbiamente può esserci, che è quello della riduzione degli ordini, ma che non penso imponesse a nessuno questa modalità di comunicazione. Questo dà davvero la sensazione che la Fiat non abbia nessuna intenzione di discutere della prospettiva, ma che si limiti a continuare ad annunciare, a rivendicare probabilmente il suo favore senza discutere che cosa succede negli stabilimenti, della produzione, della prospettiva dell'insieme del gruppo. Così appunto il ministro Scajola e da un lato e Susanna Camusso, segretaria confederale della CGIL, dall'altro. Avete sentito perplessità anche molto forte di Scajola, l'incontro che faceva riferimento a quello del 29, se non ricordo male, gennaio, appunto per capire il futuro di Termini Imerese. Allora chiarisco anche chi scrive al 349-238-6666. Noi abbiamo sempre detto, insomma, che un gruppo come la Fiat ha tutti i diritti, scusate però, di chiudere uno stabilimento altamente improduttivo come Termini Imerese, perché se veramente non funziona, non è diciamo, una società di benefattori il gruppo Fiat, Andrea Malan. Per cui quello che vedo molto contestato è il tempismo, come dire, lo vai a fare prima di questo incontro con i sindacati, è come se tu ci mettessi già una spada di Damocle sulla testa. Altra cosa che vedo come commento, e lì mi sembra che vi sia un po' più di fondamento, Andrea, è il ragionamento che fanno altri ascoltatori. Dicono forse il mercato non ha premiato e quindi ha punito Fiat perché non ha capito come mai con una perdita netta ancora di 800 milioni nel 2009 tu vada già a distribuire un dividendo, che di solito si fa quando hai degli utili, per 237 milioni, cioè si poteva reinvestire questi soldi se ancora sei in perdita. Dei due aspetti, Andrea. Dunque, per quanto riguarda le chiusure di stabilimenti, bisogna dire che Marchionne ha una visione indubbiamente più americana della situazione. Ha ricordato più volte che Obama ha dato per esempio i soldi alla Chrysler e anche alla General Motors a condizione che chiudessero gli stabilimenti e tornassero competitive. In Europa non è così, non è così in nessun paese. Vediamo quello che è successo con la Opel, dove il governo tedesco ha promesso appunto finanziamenti, poi non si è ancora concretizzato il piano. Ci saranno dei tagli, delle riduzioni di organico, ma non ci saranno chiusure di impianti in Germania, mentre la Opel chiuderà in Belgio, cioè all'estero, all'estero in un paese anche politicamente meno pesante della Germania. Lo stesso è successo qualche anno fa alla Peugeot, che ha chiuso in Inghilterra, e quest'anno Sarkozy ha finanziato sia Peugeot che Renault a condizione che non chiudessero impianti. Quindi in Europa diciamo che è come dire, le cose funzionano così. Marchionne sta tentando, dal suo punto di vista di imprenditore cresciuto e di manager cresciuto nel mondo anglosassone, di cambiare un pochettino la mentalità, però in Europa le cose funzionano in modo diverso. Questo è oggettivo, diciamo. Poi indubbiamente si vedrà quale soluzione verrà trovata nei prossimi mesi, cioè se appunto verrà seguita la strada più anglosassone o una strada più europea, quindi più consensuale e più attenta anche agli impatti sociali. Il dividendo quando non fai utile? Beh, il dividendo diciamo che è un dividendo non molto grande e probabilmente qui c'è un'esigenza anche dell'azionista di riferimento, che è la famiglia Agnelli, di appunto riprendere. Ricordiamo che negli anni scorsi gli Agnelli hanno attinto alla liquidità che c'era ai piani superiori della catena di controllo, liquidità che pian piano si va esaurendo, quindi comunque ha pesato probabilmente questo. Il mercato forse ha visto, dato il quadro non così ottimista di Pinto da Marchionne, in effetti una contraddizione nel pagare un dividendo, anche se i 200 milioni non sono enormemente rilevanti. No, però forse è più il principio per il mercato. Parlare di principio con il mercato è sempre un po' osare, però è forse anche una mancata comprensione. Da quando i dati, i conti Fiat sono stati pubblicati, cioè dal 25 gennaio, Fiat ha perso il 14% in borsa. Questo per dare l'idea della reazione non dei sindacati, ma degli operatori di borsa. Staremo a vedere, infatti appunto è il titolo peggiore anche oggi, ferma 9 euro operazione. Grazie a Andrea Malan del Sole 24 Ore. Fiat era il tema principale di borsa oggi, i titoli li abbiamo già ricordati. C'è però anche un altro settore che oggi se l'è passata particolarmente male, mi riferisco al mondo bancario. Qui però l'Italia c'entra poco oggettivamente, sono ancora i timori che vengono accolti anche in Europa, le proposte di Barack Obama, quindi tassazione dei bonus, ma soprattutto tassazione delle banche sulla base del rischio che si prendono. E poi i nuovi segnali restrittivi della Cina e le dichiarazioni di Mario Draghi ieri dopo l'incontro con i banchieri. Ha detto: attenzione, bisognerà applicare entro metà anno le direttive per i bonus, per i manager e in generale per il controllo dei rischi assunti. È tutto qua il motivo per cui le banche calano? Lo chiedo a Guido Maurino di Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera Guido. Buonasera. Sì, sono questi i motivi, insieme appunto ai timori che ci siano nuovi rafforzamenti patrimoniali da parte delle banche imposti anche con Basilea 3. Diciamo che tutto questo fa pensare che i dividendi delle banche potrebbero essere meno ricchi nei prossimi anni, nel 2010 e nel 2011. Qualcuno inizia a fare qualche calcolo, Morgan Stanley parla di 83 miliardi, in ogni caso le prospettive sul settore sono più incerte e gli istituti bancari ne pagano le conseguenze, male in particolare oggi il Banco Popolare, meno 4,65%, Intesa San Paolo 2,94%, Unicredit 2,88%, Mediobanca 2,19%. Ne abbiamo infatti ricordati due titoli positivi invece, anzi facciamo tre. Esageriamo. Ansaldo STS dovrebbe uscire con i dati, li stiamo ancora aspettando. Comunque immagino che le previsioni del conto 2009 siano così buone, perché è il miglior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione, più 3,75%. Bene invece anche un titolo che si chiama Green Vision, che appartiene al gruppo Burani, che non è che esattamente sia un gruppo messo bene in questo momento. Coin invece mi sembra che sia ancora sulla scia dei conti presenti ieri da Beraldo e assieme all'obiettivo dei 2 miliardi attraverso la di fatturato attraverso la fusione con UPIM. Ansaldo e Green Vision. Sì, Ansaldo, come dici tu, siamo in attesa a minuti di avere i conti, le stime preliminari sul 2009. Oggi, come spesso capita in questi casi, si scommette su conti buoni. E Green Vision? Per quello che riguarda Green Vision invece, nonostante appartenga, come dicevi tu, a un gruppo in forte difficoltà come quello Burani, oggi si aprono prospettive nuove per questa società specializzata nelle energie rinnovabili, energie da rifiuti, perché sembra, cioè anzi è stato confermato, quindi è ufficiale, che è arrivata un'offerta da parte di un operatore italiano, Daneco, che si occupa di cose simili a quelle di cui si occupa Green Vision, per entrare nel capitale. La notizia ha fatto subito balzare il titolo, che è stato più volte anche sospeso. Più 30% oggi, complimenti. Grazie Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Alcuni aggiornamenti di notizie uscite poco fa. Allora, continuano a creare problemi le obbligazioni greche. un'agenzia battuta da poco sottolinea come la differenza, chiamata anche in linguaggio tecnico lo spread, tra quanto rende un titolo d'estato a 10 anni greco e il corrispondente titolo tedesco, il Bund, è balzata a 350 punti base, cioè il 3,5% di differenza, ed è un livello record da quando esiste l'euro. È un elemento che preoccupa anche perché il ministro delle finanze greco ha smentito un articolo del Financial Times secondo cui Atene avrebbe conferito a Goldman Sachs il mandato di vendere alla Cina obbligazioni per 25 miliardi, e questo ha fatto schizzare, che non è una bella cosa, i rendimenti dei titoli greci a una differenza con quelli tedeschi, che ai massimi, ripeto, da quando esiste l'euro. Nel frattempo, dichiarazione di Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, da Bruxelles. Ha detto Draghi che le nuove regole sui requisiti di capitale delle banche europee, quello che i mercati temono, ed è per il motivo per cui oggi tutti i titoli bancari sono calati, uno dei motivi, dovranno essere attuate gradualmente per rendere il sistema più resistente. E poco fa il ministro Tremonti ha parlato di una politica che è tornata a svolgere il suo ruolo dopo l'illusione, dopo 10 anni di illusione della superiorità del mercatismo. Parleremo anche del ministro Tremonti, che questa mattina è intervenuto a Telefisco. Abbiamo anche i dati definitivi su Telefisco. Visto che però stavamo commentando i dati di borsa, uno dei titoli che oggi, oltre a Fiat e alle banche, più è stato penalizzato è ST Microelectronics, nel giorno in cui sono usciti i conti 2009. Il titolo ha perso il 4,2%. E quindi parliamo di STM, che è un gruppo importantissimo per il nostro paese, anche perché è una società che vale 5 miliardi e mezzo di capitalizzazione, di proprietà italo-francese. ST tra l'altro fornisce i microchip principalmente per i telefoni cellulari, per le periferiche dei computer, per le automobili, ed è tra i primi produttori mondiali di semiconduttori. Gli azionisti sono Areva, che ha quasi l'11%, e poi la Cassa Depositi e Prestiti, che ha il 10%, Finmeccanica è scesa al 3,7%, 52.000 dipendenti, e lo stabilimento produttivo più importante in Italia è quello noto di Catania, 5.000 dipendenti, poi a Grate Brianza altri 4.000 dipendenti, poi ci sono altri stabilimenti a Cornaredo e Arzano. È pesante il 2009, le perdite sono salite a 1.100 miliardi, il calo dei ricavi è stato li ha portati a 8 miliardi e mezzo contro i 9 miliardi e 8 del 2008. In miglioramento però il finale d'anno, nel quarto trimestre i ricavi netti sono cresciuti di quasi il 14%, meglio di ogni previsione, pari a 2 miliardi e 500 milioni. Il presidente e amministratore delegato di ST Microelectronics, Carlo Bozzotti, ha ricordato che nel trimestre che è appena iniziato, quindi 2010, i dati sono in linea con le attese, anche se il calo dei ricavi netti sarà tra il meno 7 e meno 13%, e quindi, ma anche questo dà attese. Tant'è che Bozzotti ha parlato di risultati incoraggianti per poi decidere se distribuire o no il dividendo, che verrà proposto comunque agli azionisti di ST Microelectronics nel Consiglio di Amministrazione in primavera. E ancora ha stimato che nel 2010 i ricavi possono tornare ai livelli pre-crisi. Sentiamo un'intervista che il nostro inviato Sergio Nava ha realizzato proprio con Carlo Bozzotti a Parigi dopo la presentazione dei dati. È stato un anno difficile, la perdita è molto importante purtroppo. È stato un anno difficile anche soprattutto per le nostre produzioni. Abbiamo dovuto tagliare nel primo e nel secondo trimestre le nostre produzioni. È stato un anno però che chiudiamo con una nota positiva. Siamo tornati a un profitto operativo, abbiamo fatto infatti 90 milioni di dollari di profitto operativo. La crescita è stata consistente anche al di là un pochino delle aspettative. È un trimestre che ci proietta sul 2010 con una posizione in portafoglio di ordini molto consistente. Diciamo, la riduzione del primo trimestre è meccanica, nel senso che il primo trimestre ha praticamente una settimana in meno del terzo, del quarto, e quindi non è certo un problema di domanda. Ci dà l'opportunità di progredire durante il corso del 2010 e passare da questo profitto operativo del 3-4% che abbiamo avuto, e naturalmente vogliamo tornare a un double digit, sia come profitto operativo, un pochino più difficile, sia anche come free cash flow. In questo momento la domanda è molto importante. Il recupero era incominciato in Cina già alla fine del secondo trimestre dell'anno scorso, ma adesso è globale, insomma, quindi anche in Europa, in Giappone, negli Stati Uniti, e anche dal punto di vista del settore di mercato, cioè dall'automotive all'industriale, dal consumer ai prodotti per le periferiche computer, quindi è piuttosto globale. Questa fase di ripresa quali impatti avrà anche a livello di occupazione all'interno dell'azienda? Noi abbiamo garantito, ad esempio in Italia, la sostanziale stabilità. Naturalmente abbiamo utilizzato gli strumenti che sono disponibili, la cassa integrazione, eccetera. In altre aree abbiamo dovuto licenziare. Abbiamo chiuso una fabbrica già negli Stati Uniti, ne stiamo chiudendo un'altra. Abbiamo chiuso una fabbrica in Marocco, abbiamo riconvertito delle produzioni a Singapore. Quindi complessivamente nel settore delle produzioni, lo scorso anno abbiamo dovuto licenziare 4.000 persone. Con la ripresa, non necessariamente nelle stesse aree geografiche, abbiamo riassunto circa 3.000 persone. Sull'assetto societario dopo l'uscita di Finmeccanica, questo poi comporterà delle novità? Non credo, diciamo, la quota è stata presa da Cassa Depositi e Prestiti, quindi c'è assolutamente stabilità. Investimento in fotovoltaico nel sud, molto importante, anche perché l'avete annunciato da poco, è un settore sul quale intendete investire e anche in qualche modo poi all'interno del Meridione Italia creare occupazione? L'ICT fa componenti elettronici, non ci metteremo naturalmente a vendere, a fare il marketing, le vendite dei pannelli solari, non è il nostro business. L'iniziativa di manufacturing è con Enel e Sharp. Penso che sia importante perché riusciamo a dare un futuro al nostro sito di Catania in un settore che è in grande espansione. Credo che ci sia un'opportunità naturalmente per l'occupazione a Catania. Ci auguriamo appunto che questo accordo Enel, Steam Microelectronics e Sharp produca anche occupazione a Catania. Dopo le informazioni sul traffico, il bilancio, anzi possiamo darvelo subito perché è comunicato, è appena uscito il bilancio dell'appuntamento annuale con Telefisco, il convegno Telefisco organizzato da Sole 24 Ore. Oltre 78.000 partecipanti, 125 le sedi collegate, 19esima edizione di Telefisco e appunto 300 punti di ascolto presso gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, 210.000 pagine viste e 65.000 utenti unici sul sito, sul collegamento web che era www.sole24ore.com/telefisco. E il prossimo appuntamento è per mercoledì 19 febbraio, quando uscirà lo speciale CD-ROM di Telefisco 2010. Ultima parte di Focus Economia. E allora, dicevamo di Telefisco e poi anche i dati sull'export di oggi. Vi dico già che, visti molti temi e lo spazio che anche oggi abbiamo dedicato a Fiat, che era il tema di borsa del giorno e non solo di borsa, il resto dell'analisi sul dato dell'export, tanto è il dato sul 2009, la faremo domani. Dicevamo Telefisco, grande successo di partecipanti, ma anche annotazioni che sono arrivate questa mattina dall'intervento del ministro Tremonti, il quale ha detto no a una riforma fatta di piccoli rattoppi e attenzione, le aliquote alte possono essere un alibi per pagare meno. Ascoltiamo Tremonti sia sulla riforma che sulle aliquote alte. Io credo che il sistema fiscale così com'è non può essere modificato dall'interno. Il nodo di Gordio non si scioglie, si taglia. Io credo che è arrivato il momento in Europa e in Italia per cominciare a ragionare su una riforma fiscale che ci allinei al nuovo secolo. Non possiamo entrare nel nuovo secolo, il mondo è totalmente cambiato con il fisco dell'altro secolo, e non credo, fatta questa scelta, che la via giusta sia quella dei piccoli rattoppi interni. Con prudenza, con saggezza, prevedendo tempi e metodi di passaggio da un sistema all'altro, ma è inutile stare a fare a rimettere a posto, a fare il bodybuilding a una specie di ectoplasma che ormai nessuno sa più dov'è e com'è e che cumula elementi di ingiustizia con elementi di inefficienza. Il sistema fiscale può essere giusto, può essere efficace, il nostro non è né giusto né efficace. Io a redditometro credo fino a un certo punto, onestamente, ma magari anche quello è uno strumento importante. Io credo di più a ridurre le aliquote e a coinvolgere in modo serio e onesto i comuni, perché questo oggettivamente, sappiamo, è un paese in cui una minoranza dichiara redditi sopra i 100.000 euro, ma le auto di classe un po' elevata che vengono vendute sono quattro volte tanto, quindi effettivamente una qualche asimmetria c'è, però anche un sistema che, avendo aliquote così elevate, è esso stesso la causa o l'alibi di togliere un po' di soldi dalla dichiarazione, perché è un sistema costruito sul presupposto che, siccome tu dichiari la metà perché evadi, io ti chiedo il doppio, così uno continua a dichiarare la metà. Insomma, io credo che un ragionamento serio si può e si deve fare. Beh, comunque avete sentito che Tremonti riconosce che, insomma, ci sono delle discrepanze che spesso anche sottolineiamo anche noi, tra il numero di auto di lusso, barche di lusso e le dichiarazioni dei redditi, chi guadagna più di 100.000, addirittura praticamente dei panda, quelli che guadagnano più di 200.000 euro lordi l'anno in questo paese, e nella grande parte sono comunque lavoratori dipendenti o comunque manager che vengono pagati da aziende. Sempre sui temi della riforma, però, Tremonti è stato molto molto cauto, direi quasi ha bocciato un'ipotesi di togliere l'IRAP, pur riconoscendo che l'IRAP è una roba stranissima, ha detto. Però togliere l'IRAP vorrebbe dire togliere la sanità. È facile dire elimina l'IRAP, ma se chi è venuto prima di te A l'ha inventata, B l'ha usata per coprire la sanità, togliere l'IRAP vuol dire togliere la sanità, quindi è una cosa che va fatta, ma è difficile. Non è che va fatto togliere la sanità, va tolta l'IRAP, che è una roba stranissima, inventata, c'è solo in Italia, quindi vuol dire che non va bene. E poi un altro tema di cui anche in questo programma spesso si è parlato, cercare di abbassare le tasse sul lavoro, quindi IRPEF ma anche IRAP, su chi produce, aumentando le tasse, il prelievo fiscale, diciamo, sul reddito finanziario, sui guadagni da capitale. Su questo, anche qui molto netto, quasi tranchant, Tremonti, che ha detto in sostanza abbiamo qualche problema in più a fare una cosa del genere rispetto a altri paesi. Il riferimento era soprattutto sulle tasse sulle rendite finanziarie, il 12,5%, tanto per capirci. Le rendite finanziarie cosa sono? Quelle vere sono all'estero, o comunque vengono giocate con strumenti, come dire, abbastanza sofisticati, che trasformano in capital gain fuori da imposta rendimenti accumulati, e con altri strumenti. E qui il grosso dei soldi ci viene dai depositi bancari o postali, che hanno un'aliquota molto alta, e dalle emissioni sul reddito fisso, che hanno un'aliquota del 12,5%. Ma il problema, nella modellistica astratta o in termini generali e ideali, uno può dire è giusto livellarli e adattarli, è vero. Ma quando c'hai da emettere il terzo debito pubblico del mondo, magari ti poni qualche problema in più rispetto all'astratta equità fiscale. E ancora sull'evasione fiscale, altro tema che ci sta molto a cuore, ripeto, non sempre in maniera così ragionevole, basterebbe arrivare a livelli di evasione simili a quelli dei paesi che ci stanno attorno. Il 2010 resta l'anno della lotta all'evasione, così ha detto durante appunto Telefisco il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, e quindi, che ha commentato anche, diciamo, i risultati ottenuti fino ad ora. La lotta all'evasione è stato l'argomento principe del 2009, i risultati sono sicuramente superiori alle attese, abbiamo già detto che i primi 9 mesi e 11 mesi del 2009 abbiamo abbondantemente superato quanto lo Stato ci aveva segnato come obiettivo, quindi abbiamo superato i 7 miliardi sicuramente di recupero effettivo. Abbiamo partecipato attivamente all'azione per lo scudo fiscale. Il 2010 rimane un anno di lotta all'evasione, di contrasto all'evasione, perché, come diceva lei, stiamo ottenendo dei buoni risultati, ma siamo soltanto all'inizio di un percorso che è lungo e difficile. La quota di evasione è abbastanza ancora molto elevata, dobbiamo continuare su questa strada. Nel 2010, quindi, continuiamo sulla lotta all'evasione, abbiamo attivato la task force per le evasioni internazionali, ampliamo il numero degli accertamenti cosiddetti sintetici, quindi di confronto fra capacità di spesa e capacità e dichiarazione dei redditi, ampliamo le indagini finanziarie, quelle sui conti bancari, stanno dando grandi risultati. Il tutoraggio delle grandi imprese viene ulteriormente rafforzato, quindi è la strada, si continua su questa strada. Così appunto Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate a Telefisco, e speriamo appunto che anche i dati del 2010 mostrino un contrasto ancora maggiore all'evasione fiscale. Non ci stiamo come tempi nel commentare con vari ospiti i dati di oggi sull'export, lo faremo domani. È uscito intanto la trimestrale e il consuntivo, scusatemi, per tutto il 2009 del gruppo Ansaldo STS, controllato da Finmeccanica. Miglior titolo oggi in borsa, più 3,7%, adesso si capisce perché. Ha registrato ordini in aumento di 0,5 miliardi rispetto al 2008, cioè da 1 miliardo e 200 milioni a 1 miliardo e 700 milioni di euro. E anche il portafoglio di ordini è a 3 miliardi e 700 milioni contro 3 miliardi e 100 milioni, crescono quindi i ricavi e anche il risultato operativo. L'export, brutto il dato, meno 18% nel 2009, non è mai successo dal 1993, quando inizia la serie statistica. Male anche le importazioni, meno 26%, in questo modo è migliorato paradossalmente il deficit della bilancia commerciale, perché abbiamo importato molto meno di quanto non abbiamo esportato. Il deficit è stato negativo per 2 miliardi e 3 contro i 21 miliardi del 2008, ma anche qui il merito si chiama petrolio. Nel 2008 viaggiava verso oltre i $100 al barile, l'anno scorso è arrivato fino a $37-38. E con questa notizia si chiude per oggi il programma. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.